Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. Abbiamo da registrare due brevi colloqui, due memorabili conversazioni a quattro occhi, avute dal nostro non eroico eroe con Claudia Chauchat e col suo compagno di viaggio. Con ciascuno a parte, l'una nel vestibolo una sera, mentre il disturbo era lassù con la febbre, l'altra un pomeriggio presso il letto dell'olandese. Quella sera, l'atrio era semibuio. Lei venne. Egli ne udì dietro a sé i passi, il vestito, e gli arrivò accanto sventolando una lettera che teneva per un angolo, e con la sua voce da Pšibislav disse: «Il portiere se n'è andato. Da bravo. Tiri fuori un francobollo». Portava un abito di leggera seta scura, con la scollatura rotonda e maniche larghe, strette in fondo da polsini abbottonati. Era l'abito che a lui piaceva più di tutti. Lei si era messa la collana di perle, che nella penombra mandava pallidi bagliori. Egli alzò gli occhi e, guardando la faccia kirghisa, rispose: «Francobolli? Non ne ho». «Come non ne ha? Tanto peggio per lei. Così poco disposto a far piacere a una signora?» Torse le labbra e alzò le spalle. «È una delusione. Precisi e fidati dovreste essere». Ma ero illusa che in uno scomparto del portafoglio tenesse piccoli fogli di tutte le specie, ordinati per valori. «No, a che scopo?» replicò lui. «Non scrivo mai lettere. A chi dovrei scriverle? Molto di rado una cartolina, e quelle sono già affrancate. A chi dovrei mai scrivere lettere? Non ho nessuno. Non ho più contatti con la pianura. Per me è scomparsa. Nella nostra raccolta di canti popolari c'è una canzone che dice: «Per me scomparso è il mondo». Questa è la mia posizione. «Allora, figliol prodigo, mi dia almeno una papyrus», disse lei sedendosi di fronte a lui vicino al caminetto, sulla panca coperta da un cuscino di tela, accavallando le gambe e stendendo la mano. «Di queste è provvisto, a quanto pare». E distratta, senza neanche ringraziare, prese la sigaretta dall'astuccio d'argento che egli le porgeva e si servì dell'accendino tascabile che egli le fece scattare davanti al viso proteso. Quel pigro «da bravo tiri fuori» e quel prendere senza ringraziare erano propri della donna ricca e viziata, ma indicavano anche un senso di comunità umana, di possesso solidale, di un'arbitraria e molle naturalezza nel dare e nel prendere. Egli ne fece la critica da innamorato, poi disse: «Oh, di queste sempre, sì, di queste sono sempre provvisto, sono necessarie, come si farebbe a vivere senza? È quella che si dice una passione, non è vero? Io, confesso, non sono un uomo appassionato, ma ho qualche passione. Passioni flemmatiche. Mi tranquillizza moltissimo», disse lei emettendo con le parole il fumo, «sentire che lei non è un uomo appassionato. D'altronde, come sarebbe possibile? Lei dovrebbe aver tralignato. Che cos'è la passione? Vivere per amore della vita. Ma è noto che voi vivete per amore dell'esperienza. Passione vuol dire essere dimentichi di se stessi. Voi invece volete arricchire voi stessi. Se sa? Non immagina che codesto è detestabile egoismo e con esso sarete considerati un giorno nemici dell'umanità? Oh, addirittura nemici dell'umanità. Che dici mai, Claudia? Perché generalizzi così? Pensi a qualcosa di concreto e personale, affermando che noi non teniamo a vivere, ma ad arricchirci. Voi donne non moraleggiate a vanvera. Oh, la morale, tu sapessi, è un oggetto di dispute fra Nafta e Settembrini. Fa parte della grande confusione. Come si fa a sapere se si vive per amore di sé o per amore della vita? Con la sigaretta in bocca, lei rise, stringendo gli occhi tartari. E appoggiate le spalle al rivestimento di legno, le mani puntate sulla panca, una gamba sopra l'altra, dondolò il piede infilato nella scarpa di vernice nera. Che generosità! Oh là là! Vraiment? Proprio così ho immaginato sempre un homme de génie. Mio povero piccolo. Lascia andare, Claudia. Io per natura non sono certo un homme de génie. Come non sono una statura. Dio mio, no. Ma poi il caso, chiamalo caso, mi ha portato molto in alto, in queste regioni geniali. Si intende però che una materia adatta a essere spinta e costretta da influssi esterni a salire verso l'alto deve in partenza possedere qualche predisposizione. La mia, lo so benissimo, consiste nell'avere da gran tempo una certa familiarità con la malattia e con la morte, e dall'essermi fatto prestare irragionevolmente, fin dal ragazzo, una matita da te, come qui nella notte di carnevale. Ma l'amore irragionevole è geniale, poiché sai, la morte è il principio geniale, la res vina, il lapis philosophorum, ed è anche il principio pedagogico, perché l'amore di essa conduce all'amore della vita e dell'uomo. Così è, e così ho intuito nella mia loggia, e sono felice di potertelo dire. Ci sono due strade che conducono alla vita. L'una è la solita, diretta, onesta. L'altra è brutta, porta attraverso la morte. Ed è la strada geniale. «Sei un bel matto di filosofo», disse lei. «Non dirò di aver capito tutto il tuo arruffato pensiero tedesco, ma ciò che dici mi sembra umano. E tu sei senza dubbio un buon ragazzo. D'altro canto, bisogna riconoscere, ti sei comportato davvero un filosof. Troppo un filosof per il tuo gusto, vero Claudia? Smetti di fare l'impertinente. Finisce per annoiare. Che tu abbia aspettato fu una trovata sciocca, illecita. Ma non mi serve ancora di aver aspettato invano. Vero? Ecco, è stato un po' duro, Claudia. Anche per un uomo di passioni flemmatiche. Duro per me. È duro da parte tua. Che tu sia venuta con lui, poiché tu avevi saputo benissimo da Berens che ero qui e ti aspettavo. Ma ti ho già detto che la considero un sogno quella notte nostra e ti concedo la tua libertà. In fondo non ho atteso invano, perché sei di nuovo qui e stiamo vicini come allora. Ascolto la meravigliosa intensità della tua voce, da molto tempo ben nota alle mie orecchie. E sotto codesta seta così ampia sono le tue braccia che conosco, anche se là sopra il tuo compagno di viaggio ha la febbre, il grande Peppercorn che ti ha regalato codeste perle e col quale lei per arricchirsi ha stretto una così buona amicizia. Non avertene a male, Claudia, anche se Tembrini me l'ha rinfacciato, ma non è che un pregiudizio sociale. Quell'uomo è un acquisto, Dio buono, è una personalità. Che sia avanti negli anni, beh, ciò nonostante capirei benissimo se tu, donna, lo amassi svisceratamente. Molto lo ami, dunque. Con tutto il rispetto per la tua filosofia, piccolo Hans tedesco, disse lei passandogli una mano sui capelli, non reputerei umano parlarti del mio amore per lui. Oh, Claudia, perché no? Credo che lo spirito di umanità cominci dove le persone non geniali pensano che finisca. Parliamo pure di lui tranquillamente. Lo ami appassionatamente? Lei si chinò per gettare il mozzicone della sigaretta nel caminetto e stette con le braccia conserte. Egli mi ama, rispose. Il suo amore mi rende orgogliosa e grata. E a lui devota. Tu capirai, altrimenti non sei degno dell'amicizia che ha per te. Il suo sentimento mi costrinse a seguirlo e a servirlo. Che altro? Giudica tu. È umanamente possibile non tener conto del suo sentimento? Impossibile, confermò Castorp. Non sei sciocco, osservò lei, e trasognata teneva fissi gli occhi obliqui. L'intelligenza non ti manca, ansia per il sentimento. Non occorre molta intelligenza per vedere che hai dovuto seguirlo, benché, o meglio, perché il suo amore deve essere molto inquietante. Certo, inquietante. C'è da stare molto in pensiero per lui, sai, le difficoltà. Lei gli aveva preso una mano e inconsciamente giocherellava con le falangi, ma a un tratto alzò lo sguardo con le sopracciglia aggrottate ed esclamò: «Un momento, non è volgare parlare di lui, come stiamo facendo?» «Certo che no, Claudia, neanche lontanamente. Non è altro che umano. A te piace questa parola. Dalle tue labbra l'ho udita sempre con interesse. Possiamo discorrere di lui con tutto il rispetto, perché tutte le sue qualità hanno una statura, una grandiosa statura regale. E noi, parlandone umanamente, non umiliamo né lui né noi.» «Non si tratta di noi», ribatté lei incrociando di nuovo le braccia. «Non sarei donna se per amore di un uomo di una certa statura, come dici tu, per il quale sono l'oggetto del sentimento e dell'ansia per il sentimento, non fossi pronta a sopportare anche umiliazioni. Perfettamente, Claudia. Hai detto benissimo. Allora anche l'umiliazione ha la sua statura. E dall'altezza della sua umiliazione la donna può parlare a chi non ha una statura regale con disprezzo. Come hai fatto tu dianzi a proposito del francobollo, nel tono in cui hai detto: almeno precisi e fidati dovreste essere. Sei permaloso. Lascia correre. Mandiamo al diavolo la scontrosità, sei d'accordo? Anch'io talvolta sono stata permalosa, lo ammetto. Dato che questa sera stiamo qui, seduti insieme, mi sono seccata della tua flemma, anche perché hai allacciato così buoni rapporti con lui per amore della tua egoistica esperienza. Eppure ero contenta ed ero grata che tu gli portassi rispetto. C'era molta lealtà nel tuo comportamento, e se anche vi si insinuava un po' di impertinenza, alla fine dovetti metterla a tuo credito. Molto gentile da parte tua. Lo guardò. Sei proprio incorreggibile. Ti dirò. Sei un giovane scaltro. Non so se tu abbia spirito, ma la scaltrezza ce l'hai sicuramente. Niente di male, ci si può vivere. Si può essere amici. Vuoi che facciamo amicizia? Che stringiamo un'alleanza per lui? Come di solito si stringe un'alleanza contro qualcuno? Se vuoi qua la mano. Spesso vivo in ansia. Ho paura qualche volta di stare sola con lui. Temo la solitudine interiore. Tu sai, lui è inquietante. Temo talvolta che non vada a finir bene. Provo un senso di raccapriccio. Mi piacerebbe sapere un'anima buona al mio fianco. Enfin, se proprio lo vuoi sapere, sono venuta apposta qui. Le loro ginocchia si toccavano, lei sulla panca, lui sulla sedia a dondolo abbassata davanti. Alle ultime parole dettegli sul viso, lei gli aveva stretto la mano. Egli rispose: da me? Oh, che bella cosa! Oh, Claudia, è straordinario! Con lui tu sei venuta da me. E dici che la mia attesa è stata sciocca, illecita e vana. Sarei sommamente balordo se non apprezzassi la tua offerta di amicizia. L'amicizia tua per lui. A questo punto, lei lo baciò sulle labbra. Mentre dunque le labbra di Castorp e della Scioscià si incontrano nel bacio russo, oscuriamo il nostro teatrino per il cambiamento di scena. Ora, infatti, veniamo al secondo dei due colloqui che abbiamo promesso di riferire. È ritornata l'illuminazione, la fioca illuminazione di una cadente giornata di primavera. Al tempo dello scioglimento delle nevi, vediamo il nostro protagonista, secondo la consuetudine acquisita, presso il letto del grande Peppercorn, in amichevole e rispettosa conversazione. Ecco, senz'altro, giovanotto. Assolutamente. Molto gentile di essere venuto da un vecchio malato. Ma no, protestò Castorp. No, Mynheer Peppercorn. Tocca a me essere grato se posso stare un po' qui. Io ne ricavo infinitamente più di lei. Io vengo per motivi egoistici. Ieri a Dorf abbiamo fatto una bisboccia scandalosa. Il capocuoco del sanatorio, se avesse visto, si sarebbe offeso giustamente. Insomma, tutti senza eccezione abbiamo fatto man bassa. Era un salame di prima qualità. Il signor Settembrini ne era commosso. Lo mangiò, si può dire, con gli occhi umidi. È un patriota, come lei saprà. Un patriota democratico. Ha consacrato la sua picca borghese sull'altare dell'umanità, affinché in avvenire il salame debba pagar dazio al confine del Brennero. Questo non è essenziale, dichiarò Peppercorn. Per me, Settembrini è persona cavalleresca e serena, anche se mi permetta questa limitazione, non priva di pregiudizi. Madame, la mia compagna di viaggio, non lo stima un granché, come lei avrà notato. Parla di lui senza simpatia. Certo, perché dal suo contegno verso di lei, siffatti pregiudizi, non una parola, giovanotto, sono ben lontano dal... Sì, tanto il signor Settembrini quanto i suoi amichevoli sentimenti verso di lui, chiuso. Non penso affatto che, in quanto alla cortesia dovuta da un cavaliere a una signora... Perfetto, caro amico, ineccepibile. Ma c'è pure un limite, un ritegno, una certa ricusazione che rende i sentimenti di Madame verso di lui sommamente... comprensibili. Li rende intelligibili, giustamente giustificati. Mi scusi, Mynheer Peppercorn, se completo io la sua frase. Posso osare, perché so di essere pienamente d'accordo con lei, specialmente se si considera quanto le donne... Lei sorriderà se alla mia tenera età parlo così delle donne in genere. Quanto nel loro contegno verso l'uomo dipendono dal contegno dell'uomo verso di loro, sicché non c'è da stupirsi. Le donne, vorrei dire, sono creature reattive, senza libera iniziativa, indolenti, cioè passive. Mi consenta di svolgere meglio, anche se con fatica, questo pensiero. La donna, per quanto ho potuto capire, in faccende d'amore si considera in un primo tempo oggetto. Lascia che l'amore le si accosti, non sceglie liberamente. Diventa soggetto capace di scelta soltanto in base alla scelta dell'uomo. E anche allora, mi permetta di aggiungere, la sua libertà di scelta, presupposto che non si tratti proprio di un tizio troppo meschino, ma nemmeno questa è una condizione assoluta, la sua libertà di scelta, dico, è pregiudicata e corrotta dall'essere stata scelta lei. Dio mio, saranno assurde le cose che dico, ma quando si è giovani tutto pare nuovo. Nuovo e stupefacente. Lei chiede a una donna: lo ami davvero? E lui: mi ama tanto, risponde, alzando lo sguardo o magari abbassandolo. Ora, si figuri una risposta così sulle labbra di uno di noi. Scusi l'accostamento. E lei ama Madame? Domandò di punto in bianco l'olandese, rivolgendo al visitatore la faccia regale, con lo squarcio dolente delle labbra e gli occhietti scialbi sotto gli arabeschi frontali. Hans Castorp allibì. Thank you.